L'uomo accorto vede il male e si nasconde, ma i semplici vanno oltre e sono puniti. Proverbi 22:3. L'amore è forse la parola in assoluto più citata in tutte le lingue. Lo si invoca ad ogni istante, in ogni occasione, come per un religioso invocare Dio. Simile ad un'ejaculatoria, la parola fiorisce negli spot pubblicitari di qualsiasi prodotto, nelle canzoni di Sanremo, nelle trasmissioni televisive, in discorsi, in articoli, saggi, romanzi, film e poesie. Di conseguenza non può che essere abusata, strumentalizzata, consumata, svuotata. Fingiamo di credere nella religione del cuore come i farisei fingevano di credere in Dio. Sembra che la parola amore sia la panacea per ogni cosa. Si dice l'importante è amare e amarsi. Eppure la realtà contraddice questa affermazione. Sono troppi i fidanzati e le coppie di sposi che affermano di amarsi e poi in seguito si dividono. L'esperienza insegna che l'innamoramento non è una base solida o sufficiente per un'unione duratura. È possibile innamorarsi di una persona assolutamente inadatta, perciò l'innamoramento non garantisce nulla. Nella Bibbia troviamo esempi che devono essere per noi un monito e una guida. Sansone si innamora di una donna filistea, ma in seguito il loro matrimonio non si rivelò. Certamente il più riuscito della storia, Giudici 14, 1 a 3. Amnon, il figlio di Davide, si innamora pazzamente di sua sorella e la violenta, 2 Samuele capitolo 13. Subito dopo il suo amore si trasforma in odio. Quando due fidanzati che si amano non arrivano al matrimonio kekos, è che non ha funzionato. Erano forse bugiardi quando si dichiaravano eterno amore? In quella fase della vita è molto difficile che si menta. Forse l'amore non è in grado di tenere uniti due persone? Se non è in grado l'amore di unire due esseri, cosa può farlo? Molto probabilmente non si ha un concetto chiaro cosa sia l'amore. Per questo milioni di vite sono danneggiate quotidianamente nel nome dell'amore. Proprio per questo è necessaria una vera e propria disintossicazione, intesa come una rieducazione e ricostruzione etica, basata sulla parola di Dio e sull'esperienza. Il vero amore non è qualcosa di ineluttabile che ci piomba addosso, e tantomeno un sentimento caramelloso e sdolcinato. Se il vero amore per Dio procede da un cuore puro, una buona coscienza e da una fede non finta, 1 Timoteo 1:5, anche nell'ambito della coppia, l'amore che procede da Dio si compone di vari elementi. Vi sono coppie di fidanzati che sono seriamente interessate a camminare insieme, ma ignorano alcune regole che cementano il fidanzamento ed il matrimonio. In alcune città americane le chiese hanno deciso di non celebrare alcun matrimonio se prima i fidanzati non avranno seguito una serie di colloqui e studi prematrimoniali della durata di 4 mesi. Nelle città in cui questo piano è stato attuato, i divorzi sono diminuiti in 2 anni dal 6 al 35%. Conviene quindi considerare alcune regole che possono assicurare e migliorare la scelta più importante della nostra vita. Dopo quella della fede. A mio avviso questo deve essere fatto prima ancora del fidanzamento perché quando si è fidanzati è ormai troppo tardi per affrontare obiettivamente certe problematiche. È quasi impossibile essere obiettivi quando il cuore è già impegnato, è quindi più che mai opportuno, prima ancora di essere innamorati, far funzionare la ragione. Un cuore innamorato confonde anche la mente più lucida. Chi non riconosce questo o non è mai stato innamorato o lo è stato in tale misura non ricordarsene più, oppure sta vivendo la fase dell'innamoramento. Ecco alcune problematiche che devi affrontare prima del fidanzamento. 1. Accertati della chiamata. La prima questione che devi affrontare è se sei chiamato da Dio al matrimonio oppure al celibato. Se la situazione normale di un uomo e di una donna è essere sposati, ciò non vuole dire che tu sia chiamato al matrimonio. Sono troppe le testimonianze di sposi che affermano di aver sbagliato e che se potessero tornare indietro non si sposerebbero. Quindi, prima di iniziare qualsiasi relazione sentimentale, accertati se sei veramente chiamato al matrimonio. Se sei in dubbio nel ritenere quale posizione è migliore, devi sapere che il celibato è onorevole quanto il matrimonio. Vi sono persone che si sono sposate solo per sentirsi normali, trovandosi a vivere una vita matrimoniale d'inferno ed a provocare dolore ad un'altra persona. Gesù, il nostro perfetto esempio di fede, non era sposato. Paolo desiderava che tutti gli uomini avessero il dono della continenza. Nella lettera ai Corinzi, Paolo invitava le vedove a rimanere tali. Come faccio a sapere se sono chiamato al celibato? Ti chiederai, la risposta è più semplice di quello che sembra. La ragazza o il ragazzo è un continuo oggetto dei tuoi pensieri. Puoi guardare l'altro sesso senza provare il desiderio di avere una famiglia. Dio non ci chiama ad andare contro i nostri istinti, istinti che Lui stesso ti ha dato. Se il pensiero del matrimonio non è continuamente nella tua mente, se l'altro sesso non è ragione di interesse, se formare una famiglia è motivo di angoscia, non sei chiamato al matrimonio. Se sbagli a comprare un'auto, la puoi sostituire senza dolori. Se intraprendi una carriera non adatta per te, la puoi lasciare senza drammi. Ma se inizi una relazione amorosa, lasci un cuore spezzato, confuso, traumatizzato. E questo se tutto va bene, se non vi è un matrimonio, se non vi sono dei figli. Meglio un celibato onorato che un fidanzamento o matrimonio disonorato. 2. Distingui il fidanzamento dal matrimonio. Il matrimonio è il matrimonio, il fidanzamento è il fidanzamento. Vivere un fidanzamento come un matrimonio sarebbe come vivere un matrimonio come un fidanzamento. Se a due sposi sembra assurdo vivere come due fidanzati, così assurdo vivere come due sposi quando si è fidanzati. Il fidanzamento deve essere diverso dal matrimonio, altrimenti non è più fidanzamento. Cosa distingue il fidanzamento dal matrimonio? I fidanzati trascorrono del tempo assieme e alla sera tornano ciascuno a casa sua. I fidanzati non sono obbligati a prendere decisioni che li vincolano. I fidanzati non esercitano la sessualità. Il fidanzamento non prevede una prole. Il nostro costume permette che ragazzi di 13 o 14 anni formino le coppiette. Oggi non vi è nulla di strano che questo sia diventato una forma di vita sociale accettata da tutti, anche se staccata dalla ricerca di un coniuge. Questo costume intralcia lo sviluppo di sani rapporti sociali. Porta il rischio di trovarsi intrappolati in una relazione sbagliata e, in ultima analisi, comporta il rischio non trascurabile di rapporti prematrimoniali. Così, ad un'età nella quale si dovrebbe godere della spensieratezza, i giovani si trovano a lottare con sentimenti di insicurezza, di identità, sentimenti carichi di attese romantiche e sessuali. La parola di Dio, che ha formato la cultura del popolo ebraico, evitava tutti questi drammi e tensioni. Dopo la pubertà, i giovani non si frequentavano. Spesso i genitori sceglievano il coniuge per i loro figli e gli sposi si univano senza essersi prima frequentati. Questo tipo di cultura evitava, per l'avvicinamento, quell'attesa nell'anticamera del matrimonio così logorante e tutte quelle problematiche che abbiamo nella nostra società. Quanto deve durare il fidanzamento? Cos è lecito nel fidanzamento? È giusto anticipare l'intimità sessuale del matrimonio? Sono giusti i giochi erotici durante il fidanzamento? Se non ti poni questi interrogativi prima del fidanzamento, ti troverai impreparato e disarmato nel momento cruciale. Se non credi alla purezza fisica prima del matrimonio, mini la felicità futura del matrimonio. Fidanzati avvisati, matrimoni mezzi salvati. Leggiamo nella parola di Dio che qualche volta era il giovane a scegliere la ragazza, come nel caso di Sansone, ma tutti sappiamo che in seguito le cose andarono molto male. Ciò non vuol dire che questa debba essere una regola per tutti coloro che hanno la libertà di scegliere il partner, ma essere liberi di scegliere il proprio coniuge non garantisce la riuscita del matrimonio. Dal momento che nessun metodo è infallibile, l'ideale sarebbe che tu sia libero di sceglierti il coniuge e vivere secondo il costume del popolo ebraico, nessuna intimità prima del matrimonio. 3. Dovete avere gli stessi valori spirituali. La domanda che pone il profeta Amos è molto attinente al nostro studio. Possono due camminare insieme se prima non si sono messi d'accordo? Amos 3, 3. Se la risposta ovvia è no, allora come credente sei chiamato a valutare la fede del tuo partner. Tutta la scrittura è impregnata dal comandamento di sposare una persona con la stessa fede. La regola di non mettersi con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi è sempre valida. E è vero che con la venuta di Gesù è stata abolita la differenza tra i giudei e gli altri popoli, ma rimane il principio. Se hai sottomesso la tua vita al volere di Dio, non puoi unirti in matrimonio con chi non ha preso la stessa decisione. Come vi può essere comunione tra la luce e le tenebre? Domanda Paolo. Forse ti è difficile riconoscere chi è nella luce e chi nelle tenebre, specialmente in una società moralmente pseudo-cristiana. Ecco tre caratteristiche che ti possono aiutare. Un figlio di Dio è colui che ha sperimentato la nuova nascita mediante un atto di fede, che ha accettato come sola autorità per la sua condotta la parola di Dio, e crede che i suoi peccati siano stati perdonati per sempre mediante un atto di fede nell'opera di Cristo. Se sposi un non credente non solo disubbidisci al volere di Dio e quindi commetti un peccato, perché il peccato è la violazione del comandamento di Dio, ma ti impegni in un matrimonio dalla dubbia durata. Se la volontà di Dio non è un punto comune per voi, chi ti assicura che il tuo partner ti sarà fedele? Se i matrimoni fra cristiani sono a rischio, come possono essere quelli misti? E, vero che vi sono credenti che hanno sposato dei non credenti e hanno un matrimonio duraturo, ma ciò è dovuto alla misericordia di Dio. Rimane comunque il fatto che il credente ha commesso un peccato, ha disubbidito ad un comandamento di Dio. Anche se sposi un credente di un'altra confessione, avrai inevitabili problematiche e altre difficoltà, oltre a quelle ordinarie. Quando ti sposi organizzerai una festa religiosa. Se sigilli, a quale cerimonia aderirete? Cattolica, protestante, ortodossa, musulmana, buddista, i figli verranno battezzati. Frequenterete una comunità? Quale comunità? Potrete pregare e leggere insieme la parola di Dio? Se sposi un credente, nell'orto del tuo matrimonio potrai seminare il seme della parola di Dio, raccogliere dei buoni frutti e risparmiare tante difficoltà di ordine pratico. Diversamente la zizzania della discordia nascerà spontaneamente e abbondantemente. 4. Considera il matrimonio come un patto per tutta la vita. Dopo la cerimonia, per molte coppie cominciano i dubbi. Ho sposato l'uomo giusto? Questa domanda esprime un pensiero segreto che molte coppie non hanno il coraggio di formulare. Fingere che tutto vada bene non è un atteggiamento spirituale. Volersi dividere e cadere all'estremo opposto. Come ci si deve comportare quando il matrimonio è un inferno? Gesù non ha mai affermato che il matrimonio sia indissolubile. Se fosse così, non avrebbe permesso che la moglie fosse ripudiata in caso di fornicazione. Gesù non ha neppure detto che il matrimonio si possa sciogliere per qualsiasi motivo, ma solo in caso di fornicazione. Questa sola eccezione mette in enfasi che il matrimonio si può sciogliere solo in caso di un peccato sessuale, la fornicazione. Prima di fidanzarti devi tenere questo in considerazione. Se ti sposi con l'intenzione di separarti nel caso che qualcosa non funzioni, non fai la volontà di Dio. Sotto quest'ottica, molti matrimoni d'oggi rotti e poi ricreati per motivazioni all'infuori della fornicazione sono illegittimi per Gesù. Se desideri compiere la volontà di Dio, devi rispettare l'unica eccezione posta da Gesù. Se non vuoi commettere adulterio. Se poi ti chiedi che cosa si intende per fornicazione, la risposta non è facile. Una cosa però è sicura. La fornicazione è una sregolatezza nell'ambito del sesso. Così ogni altra motivazione addotta per un divorzio è da ritenere illecita, anche se è vero che vi sono delle eccezioni che vanno valutate di volta in volta. Infermità mentale, omosessualità. Se accetti questa regola, onorerai il matrimonio come un impegno per tutta la vita. E, anche vero che vi è la possibilità per una coppia di sposi di separarsi, quella che viene chiamata la concessione paolina, ad una condizione che i coniugi non si risposino. Se ritieni queste regole troppo difficili da seguire, lo capirono prima di te i discepoli di Gesù che davanti ad una simile prospettiva di matrimonio dissero: se questa è la condizione dell'uomo rispetto alla moglie, non conviene sposarsi. Matteo 19 e 10. Ti conviene quindi prima digerire e comprendere bene ciò che Gesù ha insegnato in relazione al matrimonio prima di dare avvio ad un legame sentimentale, per incoraggiarti a considerare il matrimonio un legame che dura per tutta la vita. Considera il tuo coniuge come il tuo prossimo, più prossimo. Amare il prossimo è il comandamento che segue quello di amare Dio. Perciò il tuo coniuge dovrà essere oggetto delle più grandi attenzioni. È facile amare un fratello o una sorella nella comunità che vedo una volta alla settimana anziché un coniuge che vedo e con il quale vivo tutti i giorni. Se vuoi che il tuo matrimonio duri, poniti l'obiettivo di alimentare sempre un dialogo di amore e di tenerezza con il tuo coniuge. 5. Considera l'origine e l'opinione dei genitori. È fuori moda considerare l'opinione dei genitori in merito al fidanzamento e quindi al matrimonio, ma il tuo matrimonio non è un fatto isolato, sono anche due famiglie che si uniscono. L'unione di due famiglie avviene non solo materialmente ma anche geneticamente. Non puoi ignorare questa realtà. Se sei di carnagione chiara e sposi una donna con la carnagione scura, il bimbo che nascerà come risultato della tua unione avrà inevitabilmente delle conseguenze genetiche. Sarà muratto. Inutile lamentarti se il colore della pelle non sarà quello desiderato. Se tu sei diabetico, il figlio che nascerà molto probabilmente erediterà il diabete. Gli sposi non possono sfuggire ai fattori genetici. Tanto è vero che in caso di malattie serie i professori spesso devono risalire l'albero genealogico. Inoltre vi sono dei fattori genetici incompatibili per cui la nascita di un bambino sano è seriamente messa in discussione. Ecco perché oggi è consigliabile l'esame del sangue prima di sposarsi. Anche se sembra poco romantico, è meglio fare l'esame prima del fidanzamento, perché l'esame fatto dopo il fidanzamento serve solo per sapere a cosa si va incontro, anziché prevenire. Anche se è vero che non ti devi lasciare condizionare dai genitori, tu non puoi comunque ignorare certe verità e certi consigli. Oltre che ereditare caratteristiche somatiche e genetiche, si ereditano anche fattori caratteriali. Quando una ragazza sposa un ragazzo che ha genitori violenti e maneschi, nonni litigiosi, non dovrebbe stupirsi se in seguito si trova a vivere con un marito irascibile che la picchia. È vero che non è sempre così e che anche un giovane tranquillo può diventare un marito litigioso, ma proprio perché vi è questo pericolo è meglio fare una scelta intelligente. Questo non ti vuole naturalmente scoraggiare o indurti a condannare degli innocenti, ma un figlio cresciuto in una famiglia disastrata si porta dietro dei problemi affettivi e psicologici che saranno proiettati in seno del matrimonio. Prima di impegnare il tuo cuore, è saggio usare la mente e prepararsi ad affrontare certe problematiche. L'amore può certamente coprire molti falli, ma non è detto che li elimini. Una riflessione del genere fatta seriamente prima del fidanzamento ti può evitare un matrimonio irto di dolori e difficoltà. 6. Cerca l'armonia. Spesso ci si innamora e ci si sposa sulla scia di bellissime emozioni che mettono in secondo piano le divergenze. Ma le differenze di opinioni prima o poi prenderanno un posto importante nel matrimonio. Esse sono inevitabili in un normale matrimonio perché si tratta di far convivere due personalità diverse. E le differenze di opinioni spesso portano alle liti, rendono gli sposi come due fili elettrici scoperti. Se due persone diverse, anche se si amano e hanno dato la loro vita al Signore, non hanno dei conflitti, ciò vuol dire che uno è stato plagiato o dominato dall'altro. Accetta quindi, come una situazione normale, l'insorgere delle discussioni, dei conflitti, anche nei primi approcci con il tuo partner, finché ci è discussione, ci è speranza. Se non sai valorizzare le diversità durante il fidanzamento, se non compi sforzi per adattarti alle differenze dell'altro sesso, non sperare di poterlo fare durante il matrimonio. Se fate scintille durante il fidanzamento, nel matrimonio andrete in corto. Affronta lealmente, onestamente, umilmente e sinceramente le differenze di opinioni che insorgono anche durante il fidanzamento. Sono esercizi molto utili e indispensabili per prepararti al matrimonio. Al di là di un generico che tutti e due vogliamo fare la volontà di Dio, devi prepararti ad affrontare alcuni interrogativi. Come donna, desideri seguire una carriera o fare la casalinga? Quale tenore di vita vuoi avere? In caso di disaccordo, chi è l'autorità ultima? Quanti figli volete? Alcuni sposi che non hanno affrontato questo interrogativo e si sono separati. Che peso hanno i consigli dei rispettivi genitori? Un matrimonio riuscito non è formato solo da due cuori che si amano. Quando si è innamorati, ognuno, volere o no, indossa la sua maschera migliore e, sia pure inconsciamente, cerca di dare di sé un'immagine migliore di quella reale. In una relazione di amicizia è molto più facile essere genuini e scoprire il vero carattere di una persona. Perciò, per vivere bene e serenamente il tuo matrimonio, prima di esserti impegnato affettivamente, devi stabilire con tuo futuro partner un'amicizia, degli interessi comuni. Dopo la luna di miele, che non può durare per sempre, se non hai altre attività in comune con il tuo partner, ti ritroverai del tempo che non saprai come gestire assieme. Una coppia che non sa parlare, ridere, camminare, godere degli svaghi della vita assieme, è destinata o a dividersi o convivere in solitudine sotto lo stesso tetto. E non vi è peggior solitudine di quella del matrimonio. È saggio prima del fidanzamento che tu affronti questi interrogativi. 7. Considera la questione denaro. In una famiglia l'affetto non è tutto. Noi abbiamo delle necessità, abbiamo dei bisogni fisici che non possono essere ignorati. Come sta scritto, il denaro viene incontro ad ogni bisogno, Ecclesiaste 10 e 19. La questione denaro è dunque di massima importanza. Non sono poche le coppie che, non avendo affrontato per tempo come gestire il denaro, sono state trafitte di molti dolori. Ecco alcune domande che devi porti prima del fidanzamento. Dobbiamo dare la decima? Dobbiamo risparmiare? E quanto? Vogliamo sostenere l'opera di Dio? Chi amministra il denaro? Possiamo fare debiti? Il mutuo è un debito? Senz'altro vi saranno degli imprevisti per ciò che riguarda la gestione del denaro, ma se rispondi a queste domande, puoi evitare alcune problematiche. La questione denaro ha separato molti coniugi, anche se essi convivono sotto lo stesso tetto. Avere le idee chiare su come usare il denaro prima del matrimonio è dunque indispensabile. 8. Considera le ragioni della tua scelta. Sembra che siano rare come le mosche bianche coloro che si sono sposati senza grandi ideali. Tutti, più o meno, sposiamo un ideale più che una persona, siamo innamorati dell'innamoramento più che delle caratteristiche del nostro partner. Il vero matrimonio consiste nel convivere con la realtà della persona che abbiamo sposato e non con quella che abbiamo creduto che fosse o che vorremmo che sia. È più che mai opportuno che tu valuti il tuo partner prima del fidanzamento. Se scegli qualcuno come tuo partner è perché avrà qualcosa di diverso dagli altri. Prometterai al tuo partner fedeltà nella cattiva e nella buona sorte, eppure questo non garantisce la durata del tuo fidanzamento e tantomeno del tuo matrimonio. È sufficiente guardarsi attorno. Molti matrimoni si infrangono ancor prima di raggiungere una certa maturità. È possibile? Le ragioni sono tante, ma tra queste una è certamente fondamentale. Abbiamo dimenticato le ragioni della nostra scelta. E, quindi, più che saggio che tu ti ponga le seguenti domande. A. Che cosa trovo di positivo e di diverso in lui o in lei? Ricordati che ciò che ti attrae verso il tuo fidanzato o fidanzata è una sua peculiarità. Non può essere diversamente perché tutti abbiamo due occhi. una testa, due gambe, due braccia. Questo qualcosa di diverso dovrà essere uno dei motivi di convivenza fino alla morte. Se ciò che ti attira è un corpo, questo invecchia, si logora. Se sono i soldi, questi non producono felicità e possono finire. Se è una posizione sociale, spesso diventa una trappola. Se invece è una caratteristica morale o spirituale, è impossibile perderla se è vera. B. Cosa vedi di negativo in lui o in lei? Dal momento che nessuno è perfetto, se non scorgi elementi negativi nel tuo partner, sei accecato dai tuoi sentimenti. Se valuti gli aspetti negativi del tuo partner prima del fidanzamento, ciò è utile per far cadere i tuoi castelli in aria e dare maggiore sicurezza e obiettività ad una futura convivenza felice. Una valutazione franca e ad alta voce potrà aiutarti ad accettare la persona che hai scelto di amare, senza pretendere l'impossibile. La chiave del successo del matrimonio è essere riconoscenti. Se hai della riconoscenza durante il fidanzamento, in seguito continuerai ad essere riconoscente. La riconoscenza non lascia posto al rancore, all'amarezza, alla vendetta, sentimenti e atteggiamenti che frantumano il buon andamento della vita matrimoniale. Una persona riconoscente verso la vita e il prossimo prima del fidanzamento difficilmente perde questa caratteristica. 9. Poniti l'obiettivo di pregare e leggere la parola di Dio insieme al tuo partner. Se credi che sia Dio ad unire e tenere uniti i coniugi, diventa indispensabile che tu preghi assieme al tuo partner e dedichi del tempo per leggere insieme a lui la parola di Dio. In questo modo potrete maturare convinzioni comuni da prendere e armonizzare maggiormente le vostre personalità. Quando due coniugi imparano a parlare e a comunicare, sono più disponibili ad affrontare le varie problematiche che la vita impone. Così, prima ancora di fidanzarti, devi discutere come, dove e quando leggere la parola di Dio. Dovete porvi il solennemente impegno di dedicare del tempo a questo importante incontro, in mancanza del quale è precluso un buon matrimonio. Chi mi garantisce che il mio partner manterrà l'impegno? Da come egli si relaziona con Dio e nella quotidianità della vita. Chi è fedele nelle piccole cose, è fedele anche nelle grandi. Se ami Dio e metti la sua opera al primo posto, garantisci fedeltà per il futuro. 10. Considera il fatto di alcune impossibilità. È normale che un fidanzamento e un matrimonio si svolgano nel migliore dei modi. Ma non è sempre così. Se per te il fidanzamento è un'avventura, come ti consideri qualora ti sia concesso fisicamente e vi sia la rottura del fidanzamento? Se il matrimonio è per tutta la vita, cosa fai se il tuo coniuge ti tradisce? In caso di una gravidanza indesiderata, come ti comporti? Se è in pericolo la vita di tua moglie, preferisci la rottura della gravidanza o rischiare la vita del coniuge? Sono domande alle quali è difficile rispondere, soprattutto se ancora non è arrivato il momento, ma servono per responsabilizzarti per una scelta intelligente e farti comprendere la serietà del matrimonio. Sta scritto: ciò che è storto non si può raddrizzare e ciò che manca non si può contare. Ecclesiaste 1:15. La parola di Dio mette in evidenza che vi sono situazioni irreversibili, come un concepimento, un aborto, un tradimento. Non è più possibile tornare indietro e non c'è rimorso che possa cancellare certi avvenimenti. Ho conosciuto un giovane che ha sposato una ragazza pur sapendo che non avrebbe potuto avere figli. Durante il fidanzamento, preso dall'innamoramento e dal desiderio di sposarsi, riteneva inutile riflettere su tale problematica. Dopo qualche anno di matrimonio, il problema dei figli si pose con tutto il suo peso e umanità, ma ormai era troppo tardi. La situazione irreversibile lo sta tormentando tuttora. Oltre a questi dati di fatto, considerane uno di importanza vitale. Nel tuo matrimonio non sarai mai pienamente felice. Noi siamo tutti imperfetti e perciò la nostra capacità di rendere altri felici o di essere felici è imperfetta. Ciò non toglie che si possa avere un felice matrimonio imperfetto. Se tu prendi sul serio, prima del fidanzamento, questi interrogativi e queste impossibilità, affronterai il matrimonio con la dovuta responsabilità. 11. Non sottovalutare il sesso come dovere. Il sesso è una delle tre componenti fondamentali del matrimonio. Ma perché un matrimonio sia valido occorre che siano osservati tre principi. Gli sposi devono abbandonare i loro genitori, devono vivere assieme e avere rapporti sessuali. Senza queste componenti si può dichiarare nullo il matrimonio, a meno che i coniugi siano consenzienti nel non esercitare la sessualità. Prima di ogni aspetto romantico, devi considerare il sesso come un fattore biologico. Se accetti questa realtà, eviterai di cadere in certi estremi, idealismo o bestialità. Se sei una ragazza, devi sapere, prima del fidanzamento, che il sesso prima o poi si trasforma da un'esperienza piacevole in un dovere. Se sei un ragazzo, devi sapere prima del fidanzamento che tu non potrai esercitare i tuoi diritti sessuali, sempre e comunque, che il matrimonio non è la soddisfazione di ogni tua necessità sessuale. Lui dovrà sapere trattenersi per venire incontro alla sposa, lei dovrà cercare di rendersi disponibile anche quando non lo sarebbe. Quando non si è fidanzati, questo discorso può anche far sorridere perché l'attrazione sessuale è forte. Ma qualsiasi cosa bella e attraente in questa vita ripetuta per anni perde il suo piacere iniziale. La prima volta che hai guidato la bicicletta, il motorino, l'auto, sono state esperienze stupende e uniche. In seguito, queste esperienze ripetute quotidianamente hanno perso la loro attrazione. Guidare l'auto quando si è indisposti in situazioni difficili è un vero sacrificio. Così nel campo sessuale. Non sempre si è disposti, e nelle condizioni migliori, e dover esercitare la sessualità può diventare veramente un calvario. Se non ti prepari per questo tipo di incontro rimarrai deluso e mortalmente ferito nei sentimenti. Solo l'amore che procede da Dio può rendere la sessualità una fonte di benedizione. Ma ciò non toglie l'aspetto umano e pratico del dovere. Nel campo sessuale a volte si creano tensioni perché un coniuge impone all'altro qualcosa che lo turba. Un'armonia sessuale può evitare molte tensioni e, detto in altri termini, l'armonia matrimoniale dipende dall'armonia che ci è nella camera da letto. Un buon matrimonio è sempre preceduto da un buon fidanzamento nel quale i due fidanzati hanno saputo trattenersi. Due fidanzati che non sanno controllarsi prima del matrimonio, hanno poche possibilità di avere un matrimonio felice e riuscito. Un ragazzo o una ragazza che non sono, tanto per usare un'espressione biblica, una torre prima del fidanzamento, cioè inespugnabili, Cantico dei Cantici 8 e 10, non promettono nulla di buono. Certo, non è detto che tutto finisca con un divorzio, ma ne risentirà fortemente la vita matrimoniale. 12. Vivi senza conti in sospeso. Il matrimonio, per sua stessa natura, suscita tensioni e scontri. In ogni coppia, le possibilità di litigi sono infinite. Per quanto due si vogliano bene e si amino, si tratta sempre di due personalità che si confrontano e si scontrano. Queste situazioni fanno sì che inevitabilmente nascano screzi, sentimenti non caritatevoli, né cristiani. Una regola d'oro è quella di risolvere ogni questione giorno per giorno. Come è possibile ciò? E è sufficiente obbedire ad una regola d'oro. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sul vostro cruccio. Efesini 4 e 26. Si può litigare bene o si può litigare male. La scrittura riconosce l'inevitabilità dell'ira, della perdita di controllo, ma altresì ti invita a non trascinare le situazioni negative. Così devi andare a letto senza conti in sospeso con il tuo partner. Una simile regola fa dormire bene e svegliarsi meglio. È l'aspirina contro il divorzio. Se vuoi dare delle garanzie al tuo matrimonio, devi quindi già vivere questa regola. Il periodo del fidanzamento non è esente da litigi o scontri. Perciò se ti corichi senza rancori o irritazioni, getti le basi per un matrimonio sereno. Prima di fidanzarti, assicurati che il tuo partner metta in pratica la regola del cuore pulito. Chi non sa perdonare, chi si lega al dito i torti, chi si lamenta spesso degli altri per i torti subiti, difficilmente cambierà durante il fidanzamento questa inclinazione. Se gli succede durante il fidanzamento, ciò dimostra ancora una volta come sia difficile in quel periodo essere se stessi. Prima di fidanzarti rifletti diligentemente a queste cose. Forse ti sembrerà un po' esagerato affrontare tali problematiche in un periodo spensierato della tua vita, ma se per te non è il momento per affrontare tali interrogativi, significa che non è neppure giunto il momento di fidanzarti e tantomeno sposarti. Vivi allora con serenità e spensieratezza questo periodo della tua vita. L'innamoramento non ha delle scadenze. Arriverai anche tu, e se ci arrivi al momento opportuno e preparato, avrai tutto da guadagnare. Chi avrà corso e bruciato le tappe si procurerà molti dolori. Inutili perché non sarà stata una persona accorta. Gennaio 2001. Ellero.